Lettere a Radio 24 con la collaborazione di Luca Cremonese. Sono un cittadino italiano. Lavoro nel settore della vigilanza privata. La legislazione mi indica come una guardia particolare giurata, professione complessa e rischiosa, maltrattata dalla sinistra, che si rifà all'ideologia comunista, poiché ritenuta la fonte di un possibile ricorso vichiano, di quella storia che vide un partito sindacato fornirsi di un proprio esercito collaterale a quello statale. Ebbene, signori, non siamo un esercito. Vorremmo ottenere almeno la dignità del titolo di polizia privata, ma ci negano addirittura l'appellativo di comparto della sicurezza privata. Secondo lo Stato italiano, la sicurezza privata non esiste. Altro retaggio comunista avverso alla proprietà privata, alla sicurezza privata e alla tutela dell'una come dell'altra forma di essenza privativa. Ho incontrato casualmente e con dispiacere una vignetta satirica dell'organo ufficiale di quello che dovrebbe essere il residuo socialcomunista presente nel nostro paese, l'Unità. Nell'inserto M, supplemento satirico dell'Unità, una vignetta raffigura una giovane guardia giurata in mobilità che punta una pistola contro Renato Brunetta. Ingiustificato è l'attacco ad un ministro della Repubblica italiana che tenta faticosamente di raddrizzare le storture che decine di anni di sindacalismo fannullone, a tutela di fannulloni, hanno prodotto nel nostro amato, odiato e mal ridotto paese. Perché vedano, cari signori, una GPG, guardia particolare giurata, non è un fannullone dipendente di un sindacato, dell'Alitalia o del più grande datore di lavoro dell'Europa. La scuola italiana, con i suoi complessivi 1.500.000 addetti, produce il più basso livello di formazione occidentale. E per questi motivi non andrebbe accomunato a tali ambiti e a cotanti personaggi. Certo, le GPG hanno un inquadramento normativo non adeguato ai tempi e impreciso, un riconoscimento economico ridicolo se si guarda a 50.000 lavoratori armati, aggrediti quotidianamente perché indossano una divisa da incaricato di pubblico servizio, e che guardano con favore e notevole speranza ai venti di novità che tirano con il governo, che vede fra i suoi ministri lo stimatissimo onorevole Brunetta. Mentre il governo che vide i comunisti fra i suoi ministri nulla fece di tutto questo per noi. E del tonfo provocato dalla caduta del governo Prodi ancora riecheggiano le strade e le piazze d'Italia, grazie a Dio, per chi ci crede. Con la presente lettera vi prego quindi di evitare di abusare delle difficoltà di una categoria sociale e professionale come quella delle guardie giurate, specie se diretta ad aggredire un ministro dell'unico governo che sembra dimostrare attenzione e sensibilità per i problemi seri e gravi di codesta categoria. Non è con queste bergeraccate che la sinistra porterà facile nutrimento nella categoria delle GPG, salvo tutelare le facili e rapide carriere dei sindacalisti ivi presenti e di coloro che non hanno alcuna voglia di lavorare, procurando un grave danno e un'insicurezza rischiosa, in un ambito professionale all'interno del quale il cameratismo e la totale fiducia nel collega rappresentano irrinunciabili capacità personali. Eppure, dell'ideologia comunista, qualcosa sopravvive, vedo. E leggo. Sarà per questo che attraverso tecniche normative si provvede alla non rappresentatività dei partiti minori nel Parlamento italiano? Sarà per questo che la medesima tecnica verrà applicata alle elezioni europee? Ed è così, in questo becero modo, che vorrebbero concorrere all'agone politico italiano? Quale miglioramento generale dovrebbero attendersi gli italiani da siffatte ingiustificate storture e violenze, quali quelle della vignetta in oggetto? Forse quel miglioramento generale cui i signori Bassolino e Iervolino hanno voluto destinare alla popolazione napoletana? Una monnezza, insomma. Ma che bravi. Complimenti. Gustavo, guardia particolare giurata, Varese. Io non so se sia corretto definire peronismo questo tipo di regime. Certo è che sentire Berlusconi affermare l'immunità del premier è presente anche in altri paesi fa drizzare i capelli. È una menzogna spudorata. Altri paesi hanno dato immunità al Presidente della Repubblica, nessuno al Primo Ministro. Purtroppo le persone che dicono «chi se ne frega dei lodi, i nostri problemi sono altri», secondo me sbagliano. Difficile slegare i problemi del paese dalle leggi fatte per mettere al riparo il Presidente del Consiglio. Mauro. L'Italia ha accumulato migliaia di problemi che i passati governi non hanno affrontato e non hanno risolto. Il mondo finanziario è sconvolto da un sistema bancario malato. Credo che l'Italia abbia bisogno di un'opposizione che non dica sempre di no a qualunque iniziativa. Serve un'opposizione che si muova nell'interesse del paese e che tenga presente che le decisioni finali le prende chi governa. Felice. Secondo voi, chi straccia i programmi dell'opposizione manda dei segnali di democrazia? Chi dice che chi vota per l'opposizione è un coglione lancia segnali di democrazia? Chi vota in Parlamento leggi per mettersi al riparo della giustizia, a cui tutti noi siamo in dovere di rispondere se sbagliamo, dà un segnale di democrazia? Potrei proseguire ancora con mille esempi che segnalano un clima antidemocratico che Berlusconi e questo governo cercano di instaurare. Per non parlare della Lega, che in quanto a nominare armi e spargere odio sociale non si risparmia. Non solo contro gli immigrati, problema esistente e delicato da dover affrontare con più prudenza e non solo con provvedimenti repressivi che avranno in seguito risultati negativi, ma contro gli stessi italiani, magari del Sud. Claudio. Non sono un elettore berlusconiano, anzi, mi ha però intristito leggere lo sfogo veltroniano dell'altro ieri. Veltroni, invece di spiegare cosa non va nella dottrina berlusconiana e di Tremonti, rumina roba vecchia e stantia. Parlava di merito, e invece lamenta il fatto che i bimbi alle elementari potranno essere bocciati, dando l'idea che è meglio mandarli avanti perché non subiscano il trauma di una bocciatura, salvo poi abbandonarli alle prime bocciature ben peggiori della vita. La scuola come la solita fabbrica di perdenti. Lamenta un difetto di democrazia, ma mi pare che il governo sia stato democraticamente eletto, ribadendo la visione di un elettorato di sinistra moralmente migliore del resto degli elettori. E la lezione di Luca Ricolfi continua ad essere inascoltata. Lamenta una putinizzazione del paese. Qui, per fortuna, non mi pare di scorgere episodi come quelli di Anna Politkovskaja, tanto per fare un esempio. Lamenta uno svuotamento della democrazia per la proposta diminuzione del numero di parlamentari, quando anche un bimbo capirebbe che avere un sistema monocamerale, avere un solo corpo di polizia invece di 30 e così via, sarebbe una manna per rendere il paese più moderno ed efficiente e meno costoso. Lamenta una mancanza di pluralismo democratico per presunta censura sui media. Mi pare che sia sui media classici, sia sui nuovi media, blog, siti web, eccetera, l'opposizione anche dura a Berlusconi sia ben presente. Se poi il Manifesto o il Secolo d'Italia non riescono a interessare un numero sufficiente di lettori, spiace dirlo, ma non sta scritto da nessuna parte che debbano vivere a dispetto dei santi. Perché Veltroni non ha parlato di cose serie, invece di fare un predicozzo da triste curato di campagna? Roberto, Milano. Tutti i giorni una ridda di esperti ci inonda di previsioni e di analisi che si assomigliano tutte. È la cosiddetta stampa da Grand Hotel, dove le opinioni si influenzano l'un l'altra e alla fine formano l'aspettativa che non ha nessuna base reale, se non quella che si è venuta a creare. È il limite delle materie non scientifiche, quali l'economia, dove l'imprevedibile la fa da padrone. Occorre accettarlo, occorre imparare a conviverci. Ogni giorno accadono fatti che non rientrano nelle previsioni, ma gli esperti non si rendono conto di non averli previsti. La nostra mente è una macchina da spiegazione capace di trovare un senso quasi ovunque, di escogitare giustificazioni per ogni tipo di fenomeno, ma generalmente incapace di accettare l'idea dell'imprevedibilità. Non ho mai sopportato l'idea che il mercato immobiliare, in particolare in Italia, fosse trattato come un mercato non rispondente alla legge della domanda e dell'offerta, un asset ritenuto o spacciato dagli esperti, e quindi da tutti, sempre in crescita. Non è così. Purtroppo ce ne accorgeremo presto. Peccato che prima, basandosi su di una serie di aspettative errate o diffuse ad arte, si sia permessa una speculazione che ha inguaiato le famiglie, non gli investitori in borsa o, come amano dire i giornalisti, i giocatori di borsa. No, ha inguaiato le famiglie e l'economia, con il beneplacito della politica e del mondo degli affari, che ha fatto, appunto, affari. Prima dell'esplosione dei subprime, aprile o giù di lì, scrissi un piccolo volantino che feci circolare a Domodossola e nel circondario, che inviai a molti giornali radio e TV. Nel volantino si diceva che se cade il castello di carte basato sui valori immobiliari fasulli, il sistema crolla e l'economia va in recessione. La recessione è già in atto, visto che la maggior parte del reddito delle famiglie è drenata da mutui capestro utilizzati per acquisti immobiliari strapagati, ergo zero consumi. La situazione ora è ancora peggiore. Il castello di carte è crollato e le ripercussioni saranno mondiali e sistemiche. Il mondo dell'economia, così come lo conosciamo, è finito. Solo un importante intervento statale può arginare la situazione, ma questo deve essere talmente massiccio e tempestivo che nessuno degli esperti sa quanto, e ciò significa che il sistema deve essere rianimato. Tutti sappiamo che dopo un duro colpo, dopo un coma, dopo un esaurimento nervoso, nulla è più come prima e nulla sarà più come prima. Purtroppo cercare i responsabili è inutile. Certo che sentire gli esperti parlare di mercato immobiliare fa accapponare la pelle. Già lo si era capito con i furbetti del quartierino che ridda è il mercato immobiliare. Figuriamoci ora. Ho sentito dire che gli immobili di pregio reggeranno. E chi se ne frega? Quelli reggono sempre. Bisogna vedere se dopo la buriana quelli che possono permetterseli saranno gli stessi di oggi. Sapete per quanto è stato moltiplicato e spalmato il vostro debito? No, nessuno lo sa, ma presumibilmente l'indebitamento totale è migliaia di volte quello reale. Il fatto teorico è che qualcuno deve essere a credito, e qui sta il bello. Non si capisce chi sta guadagnando. Nessuno ce lo dice, nessuno ne parla. Allora la domanda è questa. Chi ci sta guadagnando? Ale Domodossola. Ma le varie agenzie di rating, Moody's, Standard & Poor's, eccetera, che avrebbero dovuto garantire la bontà dei bond emessi dalle varie società finanziarie, che fine hanno fatto? In tutta la vicenda non mi pare di averle mai sentite nominare. Sarebbe interessante capire come giustificano adesso i loro parametri di rating. Giorgio. Siamo tutti felici per la liberazione degli ostaggi, ma siamo sicuri che sia solo tutto merito del nostro Ministero degli Esteri? E non dell'onnipotente Veltroni, che oltre a risolvere brillantemente il problema all'Italia, riesce a dichiarare che il Ministro dell'Istruzione, Maria Stella Gelmini, viaggia in elicottero della polizia per arrivare in tempo per concedere un'intervista a Sky. Peccato che il giorno dopo sia arrivata la smentita della stessa giornalista, confermata solo da un piccolo trafiletto a piede di pagina del Corriere, ma ignorata completamente da tutta la stampa. Gianfranco. Due giorni fa, il Senato ha respinto la richiesta dei giudici di Roma di autorizzare gli arresti domiciliari per il neosenatore del PDL Nicola Di Girolamo, accusato di aver falsamente dichiarato di risiedere in Belgio per candidarsi e farsi eleggere nel collegio degli italiani all'estero, mentre in realtà non si è mai mosso dall'Italia. Gravi i reati contestati: false dichiarazioni, falso ideologico, abuso d'ufficio. Gravissime le conseguenze della sua condotta. Di Girolamo, se fossero provate le accuse, sarebbe un senatore abusivo che ha truffato i suoi elettori e non dovrebbe sedere a Palazzo Madama un minuto di più. Saluti, Annalisa. Gentile Annalisa, lei ha perfettamente ragione. Nel suo piccolo anche questo è un segno di autoprotezione, di chiusura della casta. Ma tant'è, non sapere o poter accertare se quell'irregolarità c'è stata è un'altra delle battaglie perse sulla via di rapporti normali fra potenti e cittadini qualunque, rappresentanti e rappresentati. Chi lo volesse sapere oggi sa che rischio correrebbe di passare per giustizialista, presente? Forse questo è l'ultimo insulto che si può dare a persone soltanto normali. La ringrazio, Annalisa. Queste erano alcune lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.